Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria per quello che riguarda il numero per i vostri sms che già mi chiedete, 349-238-6666 come sempre. Di cosa ci occuperemo oggi per quello che riguarda la cronaca della giornata? Beh, innanzitutto parleremo anche ovviamente del dato sul PIL italiano. Un PIL sostanzialmente che viene visto in crescita, come crescita rispetto all'anno prima, dello 0,8%, 0,2 il cosiddetto congiunturale, quindi il mese su mese. Parleremo anche delle immatricolazioni auto, del trimestre su trimestre chiaramente. Parleremo anche delle immatricolazioni auto a livello europeo, che non sono invece andate bene, una flessione del 6,8% soprattutto in Germania, meno 8, meno 6 in Francia, meno 4,6 in Italia e meno 20% in Gran Bretagna. E in apertura però anche il cosiddetto progetto Via della Seta, se ne sono già occupati i nostri GR24, e il Presidente del Consiglio Gentiloni è in missione a Pechino, ha incontrato il Presidente cinese Xi Jinping nell'ambito della due giorni che si chiama Belt and Road Forum. La Via della Seta è la riproposizione in chiave moderna della famosa Via della Seta, quella di Marco Polo. È un progetto estremamente complesso che prevede non solo la via, diciamo, terra, ma anche e soprattutto una Via della Seta rivisitata come rotte marittime, che in questo senso andrebbero a coinvolgere direttamente l'Italia, perché si ragiona sui porti di Venezia, Trieste, Ravenna e in parte forse anche Genova come approdo delle merci cinesi. Il progetto complessivamente voluto fortemente dall'attuale presidente cinese coinvolge 68 paesi tra Europa, Asia ed Africa, che rappresentano il 40% del PIL mondiale. Tra l'altro, uno studio della SACE, poi ne parleremo, che stima che il progetto nel suo complesso valga 1.400 miliardi di dollari. Ripeto, i corridoi però sono due: uno terrestre attraverso l'Asia centrale, che ci taglia fuori, perché è detto male, ma arriva nella parte centrale dell'Europa, e invece uno marittimo attraverso l'Oceano Indiano e l'Africa, che invece ci riguarda direttamente. C'è la preoccupazione però di una Cina che, avendo investito sul porto del Pireo, potrebbe scegliere il porto del Pireo, quindi Atene, come alternativa all'approdo dei porti italiani. E invece il tentativo di inserirsi è quello della cosiddetta North Adriatic Port Association, di cui fanno parte anche i porti di Venezia, Ravenna, Trieste e, per quello che riguarda la Slovenia, Capodistria e Rijeka. Poi di questo parleremo in apertura, perché in questo momento, come molti hanno scritto, la Cina tra virgolette è l'alfiere della globalizzazione. Uno dice, beh, pro domo sua, certo, ma è l'alfiere della globalizzazione anche in risposta a un atteggiamento di Trump molto mitigato, devo dire, nelle ultime settimane, ma che inizialmente era stato molto molto protezionistico da questo punto di vista. La borsa, più 0,30% Milano, meno 0,30% Parigi, invariata Francoforte, più 0,90% Londra. Euro in rafforzamento sul dollaro a 1,107, quindi vicino a quota 1,11. Ebbene, oggi sui titoli Enel più 2,32, Atlantia più 1,80, Banca Generali più 1,70, Generali più 1,20, Telecom più 1, come Terna. Il fronte opposto, B per Banca meno 1,90, Buzzi meno 1,70 come Prismian, l'1,40 lo perde Mediobanca, l'1,1 è il calo di Azimut, Brembo e Banco BPM, Unipol perde l'1% come Ferrari. Questi temi di cui parleremo, come sempre, in apertura le notizie in breve, che oggi riguardano anche il mondo bancario, ma non solo, e di nuovo 349-238-6666 per sms e whatsapp, appunto la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Continua la vicenda del cyberattacco. Un ricercatore di Google, secondo quanto riferisce BBC, avrebbe ipotizzato che fosse tutto partito dalla Corea del Nord, ma oggi un altro attacco, un altro hackeraggio ha minacciato la Disney, perché gli hacker hanno sostanzialmente ricattato la Disney chiedendole o un versamento, un riscatto anche qui in Bitcoin, altrimenti avrebbero reso pubblico uno dei film in uscita. Lo ha riferito Hollywood Reporter. Il numero uno della Disney, che si chiama Bob Iger, ha detto che non sarà pagato alcun riscatto. Si sarebbe trattato del nuovo episodio dei Pirati dei Caraibi. Avrebbero minacciato di pubblicare online i primi 5 minuti, poi degli spezzoni da 20 minuti finché la richiesta non verrà soddisfatta. Invece, sul fronte sempre internazionale, come già ricordava il nostro GR24, il presidente americano nella bufera dopo che Washington Post ha informato di presunte sue rivelazioni di informazioni top secret a diplomatici russi, ha smentito il consigliere per la sicurezza nazionale, ha detto, e anche Tillerson, il segretario di Stato, ha detto con Lavrov non sono state discusse fonti o metodi di intelligence, ma Trump ha parlato di una natura di specifiche minacce. Dalla Russia parlano di fake news, quella del Washington Post sarebbe l'ultimo caso di fake news, e Trump ha detto volevo condividere con Mosca fatti sul terrorismo. Ora, detta così, mi sembra assolutamente normale, anche qui senza lasciare troppo sconvolte le mezze vergini, insomma mi sembra normale che il presidente degli Stati Uniti parli con il presidente russo di minacce specifiche sul terrorismo, anzi sarebbe grave che non vi fosse uno scambio di informazioni. Poi il Cremlino ribatte che sono totali fesserie le rivelazioni del Washington Post. È intervenuta anche l'Europa, che dice i paesi dell'Unione Europea potrebbero smettere di condividere informazioni di intelligence con gli Stati Uniti se Donald Trump avesse condiviso informazioni segrete con la Russia. Ma è una cosa che non vuol dire nulla, nel senso dipende che informazioni ha condiviso con la Russia. Certo che se ha condiviso informazioni che non riguardano gli Stati Uniti ma informazioni in suo possesso sull'Europa è un conto, ma se si sono parlati per cercare di avere un piano, diciamo, non dico coordinato, ma almeno condiviso sulla minaccia terrorismo, ma ben vengano le informazioni. Io veramente non capisco delle volte, ma vado avanti. L'euro sul dollaro, dicevamo, sale nuovi massimi da novembre. Perché lo cito? Perché secondo le agenzie peserebbe anche questo nuovo scandalo che colpisce il presidente statunitense Trump. Per quello che riguarda la Gran Bretagna, anche in Gran Bretagna si è segnalata un'inflazione, pur essendo fuori dall'euro, ancora dentro l'Unione Europea ma fuori dall'euro, un'inflazione più alta del previsto al 2,7%. Il dato complessivo dell'area euro invece segnala oggi un PIL in crescita dello 0,5%, e qui arriviamo infatti a noi, la media è 0,5%, con un aumento rispetto al trimestre precedente. L'1,7% è la crescita rispetto a un anno prima. Tra l'altro la Germania ha registrato una crescita dello 0,6%, la Spagna dello 0,8%, la Francia dello 0,3%, l'Olanda dello 0,4%, sempre rispetto al trimestre precedente. Forte il Portogallo, più 1%, ci siamo già occupati del caso portoghese che, disattendendo tutte le indicazioni di Bruxelles, è andato avanti sulla sua strada. E Finlandia più 1,6%, Gran Bretagna più 0,3%, Polonia più 1%, Grecia meno 0,1%, l'Italia più 0,2%, e sull'anno è più 0,8, quindi sostanzialmente cresciamo la metà di quella che è la media dell'area euro. La variazione acquisita, cioè se per caso non dovessimo più crescere quest'anno, comunque chiuderemo con un più 0,6%, ma insomma vediamo, perché il governo punta almeno a 0,8-1%. A proposito del governo, e qui andiamo sul tema bancario, oggi il premier Paolo Gentiloni, rispondendo da Pechino a una domanda sulla sottosegretaria Mariana Boschi in merito alla vicenda che è scoppiata dopo le rivelazioni riportate nel libro di Ferruccio De Bortoli sul caso Etruria, ha detto: mi pare che la Boschi abbia ampiamente chiarito, dal caso Boschi non vi sono, non mi pare ci siano novità e non vi sono certamente implicazioni per il governo. La vicenda della sottosegretaria Boschi è nota, mi pare che lei l'abbia ampiamente chiarita, non mi pare che ci siano novità e non ci sono certamente implicazioni per il governo. Visto che siamo in tema di banche, oggi qui al Sole 24 Ore si è tenuto l'ottavo forum banche e imprese, è intervenuto anche Fabrizio Viola, che è consigliere delegato della Popolare di Vicenza, che ha risposto anche sul rinvio a giudizio chiesto per lui, Profumo e Salvadori, dalla Procura di Milano, per accusati di falso, di bilancio e aggiotaggio, perché insomma i PM Stefano Civardi, Baggio e Clerici hanno inviato al GIP la richiesta di processo per i tre manager dopo che il giudice aveva disposto l'imputazione coatta ai tempi in cui erano rispettivamente ex presidente ed ex AD del Monte dei Paschi di Siena. Viola ha detto: sono sereno perché ho una profonda fiducia nella magistratura, e per quello che riguarda le banche venete ha detto: non c'è una data prefissata, spero che arrivi via libera dell'Unione Europea prima dell'estate. Lo ha detto al microfono della nostra Anna Marino. Ma credo di sì, per due ordini di motivi. Primo, che il miglioramento dello scenario congiunturale indubbiamente aiuta nel rallentare i nuovi flussi, e questo indubbiamente è un aspetto positivo. L'altro aspetto è che le banche hanno acquisito molta più consapevolezza di questo problema, ma soprattutto hanno messo in campo contromisure importanti che vanno sia nella direzione di migliorare le performance di recupero e di cura dei propri portafogli, e sia anche accelerare quel processo di deconsolidamento delle sofferenze su cui stanno lavorando diverse banche. Sei sereno riguardo alle ultime novità e approfondimenti giudiziari? Sono sereno perché ho una profonda fiducia nella giustizia. Credo che non aspettate il disco verde di nessuno per continuare i lavori. Stiamo lavorando molto molto intensamente, non c'è una data prefissata, c'è un calendario di lavori, e poi con l'auspicio che in tempi relativamente brevi poi questo lavoro porti un risultato concreto, auspicabilmente entro l'estate. Ma sarebbe quantomeno miope che aspettiamo le autorizzazioni per fare quello di cui la banca ha bisogno, ma sono le stesse autorità che ce lo chiedono e che sono, credo, soddisfatte del fatto che il management non sta con le mani in mano. È chiaro che ci sono delle cose che si possono fare prima, delle cose che viceversa bisogna fare nell'ambito di un piano autorizzato. E quello che è importante è che alla fine di questo processo ci sia l'autorizzazione per una ricapitalizzazione precauzionale, se poi deve avvenire prima della fusione o dopo, l'importante è che avvenga. E poi Viola ha confermato che a breve arriverà la vendita della quota di Arca SGR, ha detto: speriamo di avere novità in tempi brevi. Mentre sul fronte Monte dei Paschi di Siena, ne ha parlato soprattutto il capo della segreteria tecnica del Ministero dell'Economia e Finanze, Fabrizio Pagani, il quale ha detto: nelle prossime settimane dovrebbe giungere la decisione della Commissione Direzione Generale Competitività, la Commissione Europea, sugli aiuti, cioè per evitare che siano aiuti di Stato, e poi noi come Ministero dell'Economia e Finanze procederemo alla ricapitalizzazione. La banca comunque è in sicurezza da qualche mese. Da Bruxelles nel frattempo hanno fatto sapere che su Monte dei Paschi di Siena sono stati fatti dei progressi e la Commissione, nonché l'autorità di supervisione unica della Banca Centrale Europea, stanno lavorando fianco a fianco con le autorità italiane. Sentiamo però Pagani sul Monte dei Paschi di Siena. Nelle prossime settimane si dovrebbe giungere alla decisione della Commissione, perché la Commissione deve prendere una decisione formale, la DG Comp in particolare, sugli aiuti, poi procedere il Tesoro, noi, con la ricapitalizzazione. Devo dire che in questo periodo non è che la banca poi è rimasta con le mani in mano, la banca sta lavorando per ridurre i costi, ma ha presentato un nuovo piano industriale, c'è un ritorno anche dei depositi alla banca, insomma mi sembra che la banca sia già in sicurezza, come si suol dire, ormai da qualche mese. Speriamo, visto che è l'ultima volta che la banca è stata data in sicurezza, però stavolta è diverso, cioè obiettivamente ci sono 7 miliardi del governo per il Monte dei Paschi, quindi degli italiani per il Monte dei Paschi di Siena. Allora, per quello che riguarda invece l'ultima indicazione che vorrei fare sentire, riguarda la riduzione dei non performing loans, delle cosiddette sofferenze bancarie, crediti non più esigibili in pancia alle banche italiane. Sempre Pagani ha detto che il tema degli NPL riguarda soprattutto Monte dei Paschi e due banche venete come concentrazione del tema. Giuliano Ciccioni, partner che PMG Advisory, ha detto che per la riduzione degli NPL, secondo loro la stima non è di 3 anni, ma di almeno 5 anni. L'obiettivo, la sfida, il livello di obiettivo che gli istituti si stanno dando è quello di cercare di raggiungere un obiettivo di NPL ratio che non superi, sia un intorno del 10% su un orizzonte temporale, diciamo così, di 3 anni, probabilmente di 5 anni. Crediamo, anche da un'osservazione critica di questi esercizi di pianificazione strategica, che possiamo considerare che un miglioramento delle leve industriali al massimo, secondo noi, può portare a un miglioramento, a una riduzione di stock di NPL in un orizzonte di 5 anni dell'ordine 50-60 miliardi al massimo. Se lei non capisce, allora stia zitto. No, quando non capisco lo dico, rispondo a un ascoltatore che mi riempie di insulti. Insomma, quando non capisco dico che non capisco, a differenza di chi invece dice che capisce sempre tutto. Io delle volte non capisco, forse troppe volte, va bene, ma meglio dirlo. Allora andiamo sulla via della seta, o meglio su questo progetto faraonico, anche se, attenzione, vedo alcuni scetticismi. La Cina è abituata a progetti che a noi sembrano, diciamo così, scritti sulla mappa dei sogni, ma in realtà sono assolutamente imponenti. Ripeto, 1.400 miliardi di dollari di valore complessivo, quello che potrebbe scatenare questa reinterpretazione della via della seta. Prima di tutto, però, siccome per avviare scambi commerciali e quant'altro è importante anche avere delle reti, la via della seta riguarda reti terrestri, reti marine e quindi la navigazione. Però una piccolissima chiosa su Alitalia: anche oggi il ministro Graziano Del Rio, in audizione alla Commissione Lavori Pubblici del Senato, le offerte ci saranno, dice Del Rio, sono sicuro che ci saranno le offerte di potenziali acquirenti che continuano a credere, come lo credo io, in Alitalia, un marchio con grandi potenzialità e grandi possibilità di sviluppo. Irragionevole chiedere alle Ferrovie dello Stato di fare trasporto aereo. L'amministrazione straordinaria per il governo è salvaguardare un'azienda che viene ritenuta fondamentale per il paese, non si può buttare all'aria così. Peraltro l'amministrazione straordinaria è un atto dovuto, non è un atto discrezionale in queste condizioni, cercando di garantire i diritti degli utenti, i quasi 5 milioni di biglietti già venduti, già prenotati, e cercando di avviare un risanamento che, se fosse stato avviato da subito, forse non ci avrebbe portato oggi qui a discutere di questa cosa, e consentire anche un'adeguata capacità da parte dei commissari di negoziazione con potenziali acquirenti che auspicabilmente in questo settore continuano a credere e pensano che Alitalia sia un marchio, esattamente come ci ha creduto Etihad, sia un marchio con grandi potenzialità e con grandi opportunità di sviluppo, cose che io pure credo personalmente. Penso che bisogna, come dire, avere le disponibilità finanziarie per rilanciare l'Italia, non è un'azienda che si può rilanciare galleggiando, ci vogliono investitori che ci credano davvero, ma credo che questa gestione di questi 6 mesi potrà consentirci di valutare tutte le offerte, se ve ne saranno ovviamente, ma io sono sicuro che vi saranno, tutte le offerte che sono in grado di rilanciare il posizionamento di Alitalia. Il governo non crede che la strada sia quella della nazionalizzazione. Io non credo che la strada sia quella di far entrare ferrovie o robe del genere dentro il capitale di Alitalia. Io sono convinto che noi abbiamo bisogno di grandi campioni nazionali, che siano però campioni nazionali anche statali, ma credo che però i grandi campioni nazionali ci sono se fanno il loro mestiere, non se fanno il mestiere di altri. Allora, mentre siamo in attesa di capire quale sarà l'advisor per l'Alitalia e chi eventualmente se la prenderà, Il Presidente del Consiglio, come ricordavamo, Gentiloni, è a Pechino e ha incontrato il Presidente cinese Xi Jinping nell'ambito della due giorni Belt and Road Forum, che ha come centro soprattutto la costruzione della nuova Via della Seta, che unirà Europa e Estremo Oriente. Ripeto, 68 paesi tra Europa, Asia ed Africa coinvolti, 40% del PIL mondiale. Noi abbiamo un interscambio con la Cina che vale 40 miliardi di euro, 11 miliardi di esportazioni e il resto sono importazioni, con un disavanzo di 16 miliardi. Il disavanzo però è in calo, nel senso che si riduce la differenza tra import e export del 9% nell'ultimo anno. Noi esportiamo soprattutto macchinari, 3 miliardi di euro, lì il saldo è positivo di 1 miliardo, tessile e abbigliamento, 2 miliardi di export ma un saldo negativo per 5 miliardi, e mezzi di trasporto, 800 milioni di export, sostanzialmente in pareggio con quelli che importiamo dalla Cina. E allora è in collegamento con noi a notte fonda quasi la corrispondente della Cina del Sole 24 Ore, Rita Fatiguso. Buonasera Rita. Ciao, come va? Tutto bene? Bene. Adesso ragioniamo di questo progetto che, visto sulla carta, sembra veramente un risico, il Monopoli. Però il Premier Gentiloni ha confermato che il presidente cinese, e quindi Xi Jinping, vuole inserire i porti italiani nella Via della Seta. A conclusione della Via della Seta, la leadership cinese ha dichiarato esplicitamente l'intenzione di voler investire su Genova e Trieste, anzi Trieste e Genova, direi, se gli vogliamo dare un ordine. Non c'è una data X, c'è un impegno. In un paese come questo, quando il presidente prende un impegno, in tutti i paesi, però diciamo in Cina come in Italia, quando il presidente prende un impegno viene mantenuto. E non è una notizia da poco questo, Rita, la prima domanda che ho per te, perché in realtà la Cina si è comprata il Pireo, il porto di Atene, e siccome questa Via della Seta, come raccontavamo in apertura, ha sì tutta la parte terrestre con 900 cantieri prioritari, ma anche la parte del corridoio marittimo che attraversa l'Oceano Indiano, tocca anche l'Africa e poi risale, diciamo, verso l'Europa, non era scontato che i porti italiani venissero utilizzati come terminal, come riferimento, come ultimo approdo? No, assolutamente. Intanto vorrei dire che Gentiloni ha strappato un importante impegno per una visita di Stato del presidente Xi Jinping l'anno prossimo. Noi eravamo stati sempre un po' posposti ad altri, se ci pensate, da quando era il presidente designato nel 2011, che è venuto in visita quando c'è stato l'invito di presidente Napolitano, è passato anche da Milano per incontrare la Business Community, il presidente non ha mai messo piede. Questo chiaramente è una cosa molto importante che può dare un maggiore peso a quel tipo di apertura sul discorso anche della programmazione, dell'inserimento dei porti e così via. Quindi c'è stato un impegno anche a considerare il nostro paese come un paese stabile, un paese col quale è possibile fare questo tipo di programmazione di lungo periodo. Ecco Rita, dopo il meteo e la pubblicità ascolteremo di nuovo il mercato, il commento di Gentiloni sul mercato cinese. Vedo che alcuni ascoltatori sono preoccupati a dire: ma non sarà un modo in cui la Cina apre ulteriormente i canali per portare qui le merci, quindi diciamo il rischio che vada solo a vantaggio della Cina, mentre confermo che in questo momento la Cina si sta ponendo come unico alfiere vero e proprio della globalizzazione. Ho capito, prodomo sua, ma uno deve essere contrario o favorevole a una globalizzazione coordinata, perché sul dumping noi non abbiamo mai avuto parole, né mezze parole né parole di comprensione per i cinesi. Però vorrei capire l'obiettivo finale di questa Via della Seta, che cosa si strutturerà. Dopo il metodo, la risposta 349-238-6666 per sms e whatsapp. La natura di prima mano vi presenta. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Focus Economia. 17:40 minuti, vedo messaggi scettici e siamo noi andati in ginocchio della Cina. Guardate, tutto si può fare meglio, ci mancherebbe, però si può anche dire che se non vi fosse stato questo accordo noi rischiamo di essere tagliati fuori, Rita Fatiguso, da questo aumento dei traffici che la Cina vuole nei confronti dell'Europa, perché loro hanno già il porto del Pireo. Poi tutto si può fare meglio, però a me i commissari tecnici della nazionale dal computer delle volte fanno un po' sorridere. Rita, non era scontato, ma soprattutto da cosa nasce questo impegno della Cina verso l'Europa? Dal fatto che si sono raffreddati i rapporti con Trump negli Stati Uniti? Ma sinceramente noi siamo anche abbastanza indietro rispetto ad altri paesi, come hai detto anche tu, la storia della Grecia, che è andata in pole position e in pochissimo ha praticamente passato da 500.000 container all'anno a 3,1 milioni con la prospettiva di raddoppiare in pochi anni. Dobbiamo anche pensare al fatto che abbiamo una struttura, l'ha detto anche il Premier oggi, struttura portuale che, se combinata con la parte invece che su gomma, che appunto ci porta, o anche su attraverso le linee ferroviarie, che poi ci riporta, come ha detto il Premier oggi in conferenza, nella ricca Europa, noi possiamo guadagnare tantissimo. E quindi una specie di corsa contro il tempo che in qualche modo ci deve portare ad agganciare l'opportunità di questo Via della Seta. In realtà noi non abbiamo siglato ancora niente, semplicemente il Premier è riuscito a far inserire questi, i nostri migliori due porti per questo tipo di discorso, nelle futura, ho detto non lo potremo fare in poco tempo, quindi è un problema di programmazione, però Trieste e Genova sono finiti nel, come dire, nel obiettivo della Cina. Questo per noi potrebbe essere anche un vantaggio, perché comunque riusciamo a sviluppare delle energie positive attraverso queste strutture logistiche che attualmente sono sottodimensionate e sottoutilizzate. Quindi non ci vediamo, non c'è da vedere un assalto delle merci, anche perché si tratta anche di fare da hub per tutto il nord Europa, quindi non è detto che le merci debbano per forza rimanere in Italia, piuttosto che è un problema proprio di logistica e perché no, siamo veramente indietro, questo l'ha detto. No, ma io dico una cosa, cioè, hanno ragione alcuni ascoltatori a dire vedrete che adesso con quello che ci vuole in Italia, il paese del NIMBY, not my backyard. Attenzione, qualcuno mi scrive dall'autostrada del Brennero, sì, che sarebbe parzialmente, non solo, c'è anche Tarvisio se parliamo di Venezia, però non è che possiamo dire è colpa dei cinesi, se poi noi non siamo in grado di sviluppare retroporto e logistica integrata per Genova e Trieste, beh, questa è colpa nostra, fine e basta, cioè, ma non diamo almeno questa colpa ai cinesi. Il Premier Gentiloni sull'importanza del mercato cinese per i produttori italiani. Mi dicono che più o meno una quota del 20% del mercato del mobile e del design in Cina sia italiano per definizione, e siccome questo mercato cresce con ritmi straordinari, visto la crescita di una classe media cinese con ritmi straordinari, potete capire come anche qui, non a caso abbiamo fatto un'edizione del Salone del Mobile a Shanghai l'anno scorso, anche qui la forza dell'export italiano possa guadagnare ulteriori posizioni. Non è facile, non è un mercato in cui si arriva e si vince con facilità, ma è una delle più rilevanti prospettive del futuro, e quindi sono soddisfatto che gli incontri che abbiamo avuto oggi ai massimi livelli governativi, seguiti alla visita del Presidente della Repubblica e alla preannunciata visita del Presidente Xi Jinping in Italia l'anno prossimo, siano una cornice che aiuterà lo sviluppo di queste relazioni da ogni punto di vista. Dunque, poi vedo che alcuni mi scrivono, ci riempiremo di prodotti di M cinesi, guardate che a parte il fatto che non ci riempiremo solo noi, ma Trieste e Genova sono appunto la porta d'ingresso del Mediterraneo per il centro Europa, dopodiché o chiudiamo il commercio mondiale e i primi a pagare le conseguenze siamo noi con il record di export che abbiamo fatto l'anno scorso e negli anni passati, o accettiamo che se c'è una domanda arrivi anche l'offerta, cioè non è che te lo ordina il medico di comprare il prodotto cinese, se è prodotto non in dumping, cioè con le stesse regole. Qualcun altro mi scrive: navi orrende solcheranno l'Adriatico e distruggeranno il turismo, e le mega petroliere cinesi scaricheranno idrocarburi e avranno i loro serbatoi nel nostro Mar Tirreno. Magari sono gli stessi che non volevano neanche il gasdotto TAP. Io non ho capito come ci dovremmo riscaldare d'inverno. Le mega petroliere no, il gasdotto no, perché ci sono gli ulivi. Distruggeranno il turismo, ma fatevi un giro sulla costa, diciamo, dell'Adriatico, e poi decidiamo se l'abbiamo distrutto da soli quel turismo, o sono state le petroliere, che le navi, mega navi che ancora non ci sono, a distruggere il nostro turismo. Non so, sembra sempre che viviamo in un paesino montano svizzero con la speculazione edilizia che abbiamo fatto noi, con le nostre seconde case al mare, non i cinesi. Comunque, Rita Fatiguso, per chiudere le prossime tappe, cioè quando è che andremo andremo sulle mega petroliere, quando è che andremo a chiudere, quando è che la Cina inizierà a fare Sicuramente, l'ha detto anche Gentiloni, il Premier, non sarà semplice, perché poi tra l'altro è vero che c'è stata questa sorta di rivoluzione dei porti con l'accentramento delle competenze in mano al Ministero dei Trasporti e Infrastrutture, ma c'è molta litigiosità, c'è molto, insomma, anche altri porti sono fatti avanti, bisognerà coordinare, ecco, non è che siamo come italiani anche molto, molto semplici da gestire, visto dal punto di dei cinesi. I cinesi vogliono avere degli interlocutori stabili con i quali fare una pianificazione e con i quali andare sul sicuro. Noi purtroppo siamo un paese un po' particolare. Stiamo costruendo pian piano questa fiducia, dobbiamo anche saper dire a loro a quali condizioni vogliamo stare, e credo che abbiamo imboccato una strada positiva in questo ultimo momento. Tra l'altro anche l'accordo fatto per le piccole e medie imprese da Cassa Depositi e Prestiti con China Development Bank sia uno snodo importante, cioè un accordo in cui i soldi li mettono tutte e due e comunque servono per, come dire, cercare di trovare dei punti di accordo di sviluppo di business su un livello medio piccolo, ma che faccia crescere entrambe le economie. Non so se sono un po' troppo idealista in questo. No, però idealista forse lo sei, però non si può. Il CEO ha fatto veramente un lavoro eccellente, perché questo dovrebbe essere solo l'inizio di una serie di accordi di questo tipo. Quindi lavoriamo insieme, perché anche se loro sono dei giganti, noi dei nanetti, però possiamo sicuramente fare delle cose insieme che non danneggino noi e che aiutino anche loro, giusto? Io sono d'accordo, e leggo a chi mi dice, ma insomma le critiche, certo che le leggo tutte le vostre critiche, quelle, diciamo, che hanno un senso. Per quello che riguarda i rischi, bah, insomma, vediamo il progetto, vediamo come arriviamo preparati, e soprattutto, come ricordava Rita Fatiguso, anche se avremo un interlocutore stabile o no, perché poi quando uno va a vedere gli accordi firmati, esatto. Ecco perché citavo il TAP, per gli accordi firmati a livello internazionale, poi scopri che 220 ulivi da espiantare temporaneamente e poi rimettere lì bloccano un accordo internazionale sulla fornitura di gas, non solo per noi, ti chiedi, vabbè. Però io spero invece che, e voglio essere positivo, che serva anche per dare uno stimolo all'investimento portuale, nel caso specifico Trieste e Genova, ma non solo. Grazie a Rita Fatiguso, andiamo sul in collegamento con noi da Pechino, andiamo sul traffico e poi la borsa, con le dichiarazioni anche di Mauro Moretti, sostanzialmente il suo bilancio dei 3 anni in Leonardo, ex Finmeccanica. Faircam Air and Ocean non conosce confini. Spedizioni aeree e marittime in tutto il mondo. Faircam.com vi presenta Focus Economia. Andiamo su Leonardo Finmeccanica. Io noto, al di là di chi invece è a favore, ma nessuno è a favore di qualunque tipo di globalizzazione. Abbiamo detto 20 volte che è sbagliato, ed è stato sbagliato per esempio quello che ha fatto Bruxelles sul riso, eliminando alcuni dazi a paesi, Vietnam e Thailandia in primis. È sbagliato quando la Cina ci fa concorrenza ai prodotti in dumping. È giusto che l'Unione Europea invece continui con le sanzioni sull'acciaio. Però detto questo non si può bloccare tutto, mi scrive un ascoltatore, ma insomma stiamo nel nostro brodo, teniamoci tutto quello di buono che c'è, dall'amarone a, cito un marchio di pasta trafilata in bronzo, tutto il resto passa, se ne va, che bisogno abbiamo del resto? Ma abbia pazienza, ma lei presume, ipotizza che questo paese possa andare avanti solo con la cipolla di Tropea, buonissima, con il pomodoro pachino, buonissimo, con l'amarone, buonissimo, tutto così, ma cosa ci stiamo diventando un orto o siamo ancora una potenza industriale? No, chiedo, perché se vogliamo fare l'orto botanico, ditemelo, cambiamo programma, lo chiamiamo Focus Agricoltura, Focus Botanica, bellissimi i nostri prodotti, da sempre cerchiamo di far conoscere i vantaggi competitivi del nostro sistema agroalimentare, ma immaginare che il paese si basi solo sui prodotti a chilometro zero, slow food, è una follia quanto a possibilità di produrre ricchezza per noi e per i nostri figli, io non so. Anche perché dopo un po' che a tuo figlio gli dai la cipolla di Tropea, sarà pure buona, presidio slow food, ma questo, cioè, c'ha dei problemi anche sociali, no? Figurati se gli associ l'amarone. Allora, adesso arriviamo alla borsa. Moretti, un bilancio di Mauro Moretti di 3 anni in Leonardo, ex Finmeccanica, l'assemblea degli azionisti, 3 anni intensi e fruttuosi, dopo anni la situazione permette il ritorno al dividendo e ha proposto un dividendo di 0,14 centesimi di euro per ogni azione ordinaria di Leonardo, appunto ex Finmeccanica, dopo che per anni non era stato distribuito il dividendo. Quest'anno, considerando e valutando la nuova situazione dell'impresa, considerando le nuove caratteristiche di forza e di robustezza e considerando tutti i numeri che avete visto, abbiamo valutato, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, la possibilità di poter deliberare in merito ad un dividendo che è qui proposto alla valutazione dell'Assemblea. Questa cosa l'abbiamo fatta misurando bene questo passo, sapendo che da tanti anni dividendo non ce n'era e per non so quanti, ma mi pare abbastanza in numero, anni dividendo è stato fatto naturalmente facendo debiti. In questo caso non facciamo in nessun modo naturalmente debiti, ma non solo. Abbiamo iniziato quest'anno a proporre il dividendo avendo raggiunto, riteniamo, una situazione di solidità tale da poter far sì che questa cosa che si apre quest'anno possa essere mantenuta ragionevolmente nei prossimi anni con delle curve in incremento che sul piano industriale sono state valutate ed approvate. Titolo ha perso lo 0,50% oggi in borsa, ma era l'assemblea degli azionisti. Adesso andiamo su GR24, poi commentiamo con Ceo Condina, che saluto intanto Radio Corri su 24 ore. Buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Commentiamo la giornata complessiva, più 0,38% Milano, invariata Francoforte, meno 0,20% Parigi, più 0,91% Londra e invariato in questo momento il Dow Jones, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Logica, Spazio, Tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Dunque, Ceo Condina, al di là della seduta abbastanza piatta nelle varie borse europee, andiamo sui singoli titoli, parleremo dopo del settore auto, però molto forte oggi Enel, più 2,41% per quello che riguarda appunto il titolo, e siamo ai massimi dal 2011. Sì, il titolo Oggi è andato molto bene, ci ha atteso sul mercato, sia perché diversi operatori ritengono il titolo sottovalutato a livello di, diciamo, di rapporto tra prezzi e utili attesi nei prossimi anni rispetto ai principali competitori europei. Si parla di uno sconto, si chiama così, di circa il 25% rispetto ai competitor, ma c'è anche attesa per la diffusione della semestrale che avverrà a luglio. In quell'occasione, secondo alcuni operatori, secondo alcuni broker, il management del gruppo potrebbe aggiornare a rialzo le previsioni sugli utili 2017. Altri titoli, Atlantia, dopo l'operazione di cui ampiamente abbiamo parlato ieri con Abertis, e sempre per quello che riguarda i titoli, vedo anche Banca Generali di un nuovo forte, più 2%, Telecom Italia più 1,60%, Terna più 1,40%, Mediaset più 1%, Generali più 1%, Mediolanum più 0,90%, Snam più 0,80%, CNH più 0,60%, Atlantia ed eventualmente se c'è notizie su Banca Generali. Ma direi su Banca Generali comunque c'è un tema di raccolta che negli ultimi mesi comunque un po' per tutti gli operatori si sta rivelando comunque a una buona tenuta dopo un 2016 che era stato diciamo eccezionale, a testimonianza della forte liquidità che circola sul mercato. Per quanto riguarda Atlantia, insomma il discorso è sempre quello dell'aggregazione con Abertis, un'aggregazione che piace al mercato in termini poi di diversificazione del rischio su tutto il pianeta a livello di infrastrutture, diciamo una cosa che appunto Atlantia otterrà grazie all'acquisizione di fatto di Abertis. C'è anche un tema di approvazione da parte dei principali soci di Abertis che sembra cosa fatta. I principali soci di Abertis, che ricordiamo, sono i catalani della CAIX. Ancora tra i titoli A2A bene, poi un po' ritracciato dopo che Brescia ha detto sostanzialmente che non vuole più vendere le quote, i peggiori: Prismian meno 1,70, Biperbank meno 1,60, Buzzi meno 1,40, Ferragamo meno 1,20, Ferrari meno 1,20 come Unipol e Tenaris, Mediobanca meno 1 come Brembo. Migliori e peggiori in assoluto: Club più 18,70, Italia Online, vabbè, sulla risparmio più 16, SME più 12, Exprivivia più 7%. Fronte opposto, CDR Advance Capital meno 7,50, Ecosantec meno 7,20, Banca IFIS meno 6,30%. Di Fiat adesso diciamo, ma il dato è arrivato a livello di matricolazioni europee, il titolo Fiat ha perso lo 0,50%, il dato complessivo però vede un calo del 6,8% da aprile in Europa, e resta positivo del 4,5% nei primi 4 mesi il dato sulle immatricolazioni. In Europa la Fiat ha complessivamente avuto un calo dello 0,5%, ma essendo più basso del calo del 6,8% di media, aumenta la sua quota al 7,3%. Nei primi 4 mesi comunque Fiat ha fatto oltre il doppio del mercato, più quasi 11% nelle immatricolazioni. Ma di questo parliamo adesso nel ringraziare Ciao Condina di Radio Core, il Sole 24 Ore. Al di là del caso italiano, dato la flessione complessivamente più, cioè, peggiore è quella in Germania, meno 8% le immatricolazioni, meno 6% in Francia, meno 4,6% appunto in Italia, meno 20% fuori dall'euro e in assoluto il dato peggiore la Gran Bretagna, aumento invece dell'1% in Spagna. Per quello che riguarda i gruppi, meno 9% per Volkswagen, meno 6,8% per PSA, Peugeot Citroën, meno 3% per Renault, meno 0,5% per Fiat Chrysler, meno 6% per BMW, meno 13% per Opel. E visti così i dati, si capisce che pur con il segno meno, a Fiat, al gruppo Fiat è andata bene, perché è un calo molto molto più basso rispetto agli altri, ed ecco perché aumenta appunto la quota complessiva. Ringrazio per averci aggiunto in collegamento Filippo Pavan Bernacchi, presidente di Federauto. Buongiorno a lei, rappresenta circa 3.200 concessionari per auto, veicoli commerciali e industriali. Domani avete l'assemblea, ma io le chiedo, vi aspettavate un calo ad aprile, nel senso che era atteso dopo i primi 3 mesi sempre di incremento, se no, che cosa vi preoccupa? No, ci aspettavamo sicuramente un calo. L'Europa è, appunto, come ricordava lei, è scesa del 6,8, l'Italia del 4,6, però se guardiamo i primi quattro mesi l'Italia e l'Europa sta marginando una positività del 4,5, l'Italia dell'8%. E comunque l'Italia è in questo momento il terzo paese come tra i maggiori mercati europei dopo Germania e UK. Quindi sono numeri importanti, erano 41 mesi che l'Europa non vedeva un segno meno, è arrivato, ma sono mercati molto elevati. Quest'anno noi pensiamo che in Italia potremmo arrivare a sfiorare i 2 milioni di pezzi, circa 1.970.000, quindi tornando un po' a quel periodo pre-crisi dal quale volevamo uscire. Che indicazioni avete sui singoli modelli e sulle scelte, visto che l'Italia si conferma in questo momento un mercato in cui che cresce a ritmi doppi, diciamo, in media del resto d'Europa? C'è una scelta specifica, visto che lei rappresenta poi i concessionari, quindi chi ha rapporto finale diretto con il cliente, nella scelta dell'auto? Ma in questo momento stiamo registrando sicuramente una diminuzione delle motorizzazioni benzina, tiene molto bene il diesel, è sceso moltissimo il metano, mentre il GPL ha una richiesta più effervescente. Interessanti le ibride, ancora molto molto basso l'impatto sull'elettrico. Ma anche qui, guardi, mi dà l'assist per dire una cosa. Tutti parlano praticamente di una graduale uscita dei diesel dal mercato europeo, dalla circolazione, e quindi è importantissimo in questo modo qui, in questo tempo, parlare con la politica per riuscire a trovare una gradualità per far uscire i diesel con un piano pluriennale in maniera soft per i clienti, per gli utenti e anche per gli operatori. Senta, ma un'ultima domanda che ho per lei, anche una mia curiosità, ma in questi ultimi anni, dove tutti noi ci muoviamo nel mondo dei consumi consultando la rete, paragonando le offerte della rete, andando a informarci prima, verificando, voi avete degli utenti, dei clienti, insomma, che sono più informati, che arrivano e dicono: no, guardi che la stessa auto viene offerta da un altro concessionario a un stile migliore, e molto più preparati, oppure alla fine poi prevale il rapporto umano? No, in questo momento il mondo il rapporto umano è cambiato drasticamente. Prima un cliente, prima di acquistare una vettura, visitava 5-6 enti di vendita, adesso praticamente va a colpo sicuro, ha già fatto tutte le ricerche sul web, ha già visto i prezzi, le promozioni, e addirittura sul piazzale alcuni clienti con i tablet ci dicono: no, ma questa la trovo da un'altra parte con un opzione in più o in meno, confrontando i prezzi. Quindi il mondo è cambiato radicalmente, anche noi dobbiamo rispondere a queste nuove esigenze, siamo monitorati anche dalle case sul servizio che diamo ai clienti, e dobbiamo, una parte dei premi che ci danno le case è proprio sulla soddisfazione dei clienti. No, mi interessava perché appunto questo spiega anche come è cambiato tutto l'atteggiamento dei clienti. Perché diminuisce la richiesta di auto a metano, mi chiede un ascoltatore. Sì, non è facile dare una risposta a questa domanda. Sicuramente il fatto che lo Stato e le regioni abbiano diminuito gli incentivi alle vetture a basso impatto ambientale, costando queste di più e non essendoci più gli incentivi, le persone si fanno dei conti. Allora non è più conveniente come quando non si pagava il bollo per 3 anni, o comunque c'era una piccola quota che metteva lo Stato. Grazie, in bocca al lupo anche a lei, ma soprattutto ai 3.200 concessionari associati di Federauto. Andiamo sul traffico, poi ci occupiamo del PIL. Vedo già dei commenti. Allora, la crescita italiana viene confermata deludente, nel senso che è la metà della media dell'area euro. Così chiariamo il campo e sgombriamo il campo da ogni dubbio. 0,8 contro una media dell'area euro dell'1,7%, mi riferisco al tendenziale al trimestre di un anno prima. Se facciamo invece il dato sul trimestre precedente, non su un anno prima, ma sul trimestre precedente, non cambia ragionamento: 0,5% la media dell'area euro, 0,2% quella italiana. Ne parliamo dopo il traffico. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Focus Economia. something good. Ultima parte di Focus Economia, do i dati anche degli altri. Noi abbiamo fatto 0,2% trimestre su trimestre, ha fatto 0,6 invece la Germania, 0,3 la Francia e il Regno Unito e 0,2 gli Stati Uniti, che non venivano oggi chiaramente, ma come raffronto. In termini tendenziali, e cioè rispetto a un anno prima, il PIL è cresciuto del 2,1 nel Regno Unito, dell'1,9 negli Stati Uniti, dell'1,7 in Germania, dello 0,8 in Francia e dello 0,8 anche in Italia. Meglio di noi anche Polonia, più 1, Portogallo, più 1, e mi fermerei qui. Grazie alla dottoressa Stefania Tomasini, responsabile previsioni e analisi economiche per l'Italia dell'Istituto Prometeia. Buonasera. Buonasera. Allora, resta una crescita metà, sia che se la guardi nel tendenziale che nel congiunturale, della media europea. C'è qualche elemento che vi ha sorpreso in positivo e vi attendevate qualcosa in più? No, direi che forse ci attendevamo qualcosa in meno, perché la produzione industriale nel primo trimestre è stata abbastanza deludente, quindi avevamo previsto uno 0,2, si è confermato lo 0,2, però il rischio diciamo ieri poteva essere che, data quella produzione industriale, potesse essere qualcosa di meno. Quindi da questo punto di vista è un risultato atteso e sommato positivo, però come lei ricordava, non dobbiamo dimenticare che continuiamo a crescere a un passo molto più lento di quello medio europeo, e quindi siamo il paese che invece dovrebbe recuperare, forse correre più velocemente, visto che abbiamo alle spalle una recessione molto più forte di quella che hanno registrato gli altri paesi. Mi scusi, quindi, dottoressa, ma quando andiamo a scorporare i contributi al PIL, come si chiamano in gergo, ho visto che oggi la Coldiretti festeggia il fatto che l'agricoltura torni in positivo, però quali sono i contributi al PIL che mancano all'appello? Oppure lei mi può dire, no, guardi, è tutto uguale, nel senso che c'è una debolezza complessiva? Dunque, il dettaglio non lo conosciamo, perché è solo una stima flash, il dettaglio uscirà fra una quindicina di giorni, quindi non sappiamo le componenti di domanda. C'è un'informazione che ci dà l'Istat, che ci dice che verosimilmente, e questo l'abbiamo visto anche dai dati del commercio, c'è un contributo negativo delle esportazioni nette, però questo è dato da una crescita delle esportazioni. Le esportazioni sono cresciute e stanno beneficiando di un miglioramento del clima economico nei paesi emergenti e anche ovviamente della forza, diciamo, della crescita in Europa. Però a fronte di queste esportazioni abbiamo avuto molte importazioni, e questo chiaramente toglie fiato alla crescita, ma contemporaneamente è anche un segnale del fatto che probabilmente la domanda interna si sta in ogni caso muovendo. In parte questo è sicuramente legato al ciclo di acquisto di mezzi di trasporto, come sa, questo ciclo, questa ripresa è molto condizionata da questo forte ciclo di acquisto di mezzi di trasporto che sta proseguendo e ha una componente molto importante di beni importati, le auto ne compriamo tante all'estero. Però ci sono anche beni di investimento, e quindi da questo punto di vista non interpreterei negativamente questo dato del contributo negativo delle esportazioni nette, proprio, cioè, perché dice, sono un segnale vanno del bene fatto le nostre che esportazioni, la domanda, sì, ho capito. Dice, vanno bene le nostre esportazioni, però sono aumentate le importazioni, ecco perché il saldo è negativo, ma questo, lo spiego a tutti, potrebbe essere anche un buon segnale, perché quando i consumi interni ripartono, non è che possiamo immaginare l'autarchia, come pensano alcuni, che tutti i consumi ripartono solo con prodotti fatti in Italia. Uno compra quello che vuole nella vita, e quello che gli piace, quello che può soprattutto comprare, può permettersi di comprare, ma è chiaro che se ripartono i consumi interni, ripartono anche le importazioni. Però mi scusi, dottoressa, noi dovremmo vedere a questo punto un dato sui consumi un pochino più corposo, no? Esatto, questo i consumi potrebbero, i consumi non stanno crescendo tantissimo, dalla metà dell'anno scorso sono stati il driver dell'uscita dalla recessione, ma poi hanno via via rallentato e adesso sono in crescita ma stanno rallentando, e quest'anno ci aspettiamo in effetti una diciamo una stabilizzazione su ritmi di crescita abbastanza bassi. Perché? Perché l'inflazione sta risalendo e quindi l'inflazione taglia potere d'acquisto, per cui anche gli incentivi fiscali, quel po' di espansione fiscale che si riesce a fare nonostante appunto il debito pubblico, i vincoli europei, viene in parte tagliato, diciamo, dall'inflazione. Quindi i consumi continuano a crescere ma hanno perso un po' di forza. Aspettiamo gli investimenti che l'anno scorso, nella seconda parte dell'anno specialmente, hanno ricominciato a crescere a ritmi abbastanza sostenuti, anche qui con una componente molto forte di beni legati all'auto, auto, non solo auto, mezzi di trasporto in genere. E quindi quest'anno questo ciclo dei mezzi di trasporto via via, anche perché ormai è il terzo anno che sta, diciamo, trainando la ripresa, dovrebbe via via attenuarsi e dovrebbe essere sostituito da altre di investimento, in particolare anche quelle che ricevono un sostegno fiscale. Scusi, ma gli investimenti pubblici 4.0. Però gli investimenti pubblici sono già. No, sai significa? Perché lo dico? Perché questo è il solito tema, cioè qui abbiamo un PIL che cresce alla metà degli altri paesi e già non è buono. Uno dice vabbè, ma almeno è 0,8, capito, però siamo sempre alla metà. Con il massimo delle politiche monetarie possibili, tassi a zero, quantitative easing in corso. L'inflazione che è un po' ripartita per via dei beni energetici, per cui non è dovuta a questi grandi consumi italiani. No. E quindi erode potere d'acquisto, e dico in questo senso è negativa, perché non è un'inflazione dovuta al fatto che io guadagno di più, spendo di più, i prezzi salgono, è un'inflazione che è dovuta a una crescita dei prodotti petroliferi e dei beni energetici che va a erodere un pochino il mio potere d'acquisto. Il debito sostanzialmente è lì. Eppure non ripartono gli investimenti pubblici, che vuol dire che stiamo ancora spendendo troppo in quella che io chiamo banalmente spesa corrente, cioè la spesa, diciamo, pubblica non necessariamente produttiva, beni intermedi e quant'altro, perché se avessimo una ripartenza seria di investimenti pubblici dovremmo vedere qualche piano in più. L'anno scorso hanno fatto meno 4,2%, se non ricordo male. Risulta anche voi un debito fermo e investimenti pubblici in continuo calo? Che è la peggiore delle cose, secondo me, che vuol dire che tu paghi con i soldi dei contribuenti non investimenti futuri, ma i soldi dei costi. Sì, assolutamente sì, ha ragione. E gli investimenti pubblici sono stati, diciamo, i grandi assenti di questa fase. E anche se appunto ci sono gli stanziamenti, ci sono stati degli stanziamenti, quindi c'è un problema di stretta fiscale, ma c'è anche un problema di capacità di delle amministrazioni di spendere, e quindi da questo punto di vista appunto c'è un problema legato, diciamo, alla spending review, ma non necessariamente, ecco, ma quindi no. Ci potrebbero essere gli investimenti pubblici dovrebbero crescere un po' di più e potrebbero crescere un po' di più anche sulla base di ciò che le amministrazioni hanno come stanziamenti disponibili. Quindi lì c'è un problema di macchina amministrativa. Ecco, diciamo la capacità di fare anni. I progetti, sì. E decidere come spendere le risorse, non tantissime che ci sono. No, per evitare le scuse sempre l'Europa. In questo caso l'Europa non c'entra nulla, è colpa anche nostra. Grazie intanto a Stefania Tomasini, responsabile previsioni e analisi economiche per l'Italia di Prometei. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barigioni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, libera la voglia di fare.